Ma è stato un peccato perché la Coppa era, diciamo che c'era una tensione grande, aveva cresciuto molto come manifestazione e quindi quello problema adesso ha fatto un po' crollare tutto. Io spero che questa situazione sia risolta al più presto e magari dopo una sfida tra questi due team, che sono in litigio, che venga rimessa come prima.